Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. palazzodiamanti.it. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Prima puntata. Io ero quell'inverno in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi sono messo a raccontare. Ma bisogna dica che erano astratti, non eroici, non vivi. Furori, in qualche modo, per il genere umano perduto. Da molto tempo questo. Ed ero col capo chino. Vedevo manifesti di giornali squillanti e chinavo il capo. Vedevo amici per un'ora, due ore, e stavo con loro senza dire una parola, chinavo il capo. E avevo una ragazza o moglie che mi aspettava, ma neanche con lei dicevo una parola, chinavo il capo. Pioveva intanto e passavano i giorni, i mesi, e io avevo le scarpe rotte, l'acqua che mi entrava nelle scarpe, e non vi era più altro che questo. Pioggia, massacri sui manifesti dei giornali e acqua nelle mie scarpe rotte. Muti amici, la vita in me come un sordo sogno. E non speranza, quiete. Questo era il terribile, la quiete nella non speranza. Credere il genere umano perduto e non avere febbre di fare qualcosa in contrario, voglia di perdermi, ad esempio, con lui. Ero agitato da astratti furori non nel sangue, ed ero quieto, non avevo voglia di nulla. Non mi importava che la mia ragazza mi aspettasse, raggiungerla o no, o sfogliare un dizionario, era per me lo stesso. E uscire a vedere gli amici, gli altri, o restare in casa, era per me lo stesso. Ero quieto. Ero come se non avessi mai avuto un giorno di vita, né mai saputo che cosa significa essere felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare, e nessuna disposizione a ricevere. È come se mai in tutti i miei anni di esistenza avessi mangiato pane, bevuto vino o bevuto caffè, mai stato a letto con una ragazza, mai avuto dei figli, mai preso a pugni qualcuno, o non credessi tutto questo possibile. Come se mai avessi avuto un'infanzia in Sicilia tra i fichi d'India e lo zolfo, nelle montagne. Ma mi agitavo entro di me per astratti furori e pensavo il genere umano perduto, chinavo il capo e pioveva. Non dicevo una parola agli amici. E l'acqua mi entrava nelle scarpe. Allora giunse una lettera di mio padre. Riconobbi la calligrafia sulla busta e non l'aprii subito. Indugiai in quel riconoscimento. Riconobbi che ero stato bambino. Avevo pure avuto in qualche modo un'infanzia. Aprii la lettera e la lettera diceva: «Mio caro ragazzo, tu sai e tutti voi sapete che sono stato sempre un buon padre e per la mamma vostra un buon marito, insomma un buon uomo. Ma ora mi è successa una cosa e sono partito. Ma voi non dovete giudicarmi male, sono rimasto lo stesso buon uomo che ero e per voi tutti lo stesso buon padre, un buon amico per la mamma vostra e per di più potrò essere un buon marito per questa, diciamo, mia moglie nuova con la quale sono partito». Figli miei, io vi parlo senza vergogna da uomo a uomini e non chiedo il vostro perdono. So di non fare male a nessuno. Non a voi che siete tutti partiti prima di me e non alla mamma vostra, cui in fondo tolgo soltanto il disturbo della mia compagnia. Con me o senza di me è lo stesso per lei che continuerà a cantare e fischiare nella sua casa. Vado dunque senza rimpianti per la mia nuova strada, voi non vi preoccupate di soldi o altro. La mamma vostra non avrà bisogno di nulla, riceverà ogni mese per intero la mia pensione di ex ferroviere. Io vivrò di lezioni private, realizzando in tal modo anche un mio vecchio sogno che vostra madre mi aveva sempre impedito di realizzare. Però vi prego, ora che vostra madre è sola, andatela qualche volta a trovare. Tu, Silvestro, avevi 15 anni quando ci hai lasciati e da allora ciao, non ti sei fatto più vedere. Perché l'8 dicembre, invece di mandarle la solita cartolina di auguri per l'onomastico, non prendi il treno e vai giù e le fai una visita? Ti abbraccio insieme alla tua cara moglie e ai bambini e credimi affezionatissimo a papà tuo, Costantino. Vidi che la lettera proveniva da Venezia e capii che egli aveva scritto a tutti e 5 noi figli sparsi per il mondo con le stesse parole precise, in circolare. Era straordinario. E rilessi la lettera e riconobbi mio padre, il suo volto, la sua voce, i suoi occhi azzurri e il suo modo di fare. Mi ritrovai un momento ragazzo ad applaudirlo mentre lui recitava il Macbeth in una sala d'aspetto d'una piccola stazione per i ferrovieri di tutta la linea da San Cataldo a Racalmuto. Riconobbi lui e che ero stato bambino e pensai Sicilia, montagne in essa. Ma la memoria non si aprì in me che per questo solo. Riconoscer lui e ritrovarmi ragazzo ad applaudirlo, lui e il suo vestito rosso in Macbeth, la sua voce, i suoi occhi azzurri, come se lui ora stesse di nuovo recitando su un palcoscenico chiamato Venezia e di nuovo si trattasse di applaudirlo. Non si aprì dunque che appena per questo. Ritornò otturata e io fui quieto nella mia non speranza come se mai avessi avuto 15 anni d'infanzia e di Sicilia, fichi d'India, zolfo, Macbeth, nelle montagne. Altri 15 anni erano passati dopo quelli, a 1000 chilometri di là, dalla Sicilia e dall'infanzia, e avevo quasi 30 anni, ed era come se non avessi avuto nulla, né i primi 15, né i secondi, come se non avessi mangiato mai pane e non mi fossi arricchito di cose e cose, sapori, sensi, in tanto tempo, come se non fossi stato mai vivo e fossi vuoto, questo ero, come se fossi vuoto, pensando il genere umano perduto e quieto nella non speranza. Non avevo più voglia di guardare la mia ragazza in faccia, sfogliavo il dizionario, mio unico libro che ormai fossi capace di leggere, e cominciai a sentire in me un lamento come un piffero che suonasse lamentoso. Andavo al lavoro tutte le mattine per il mio mestiere di tipografo linotipista, facevo 7 ore di linotype al giorno al calor grasso del piombo sotto la visiera che mi difendeva gli occhi, e un piffero suonava in me e smuoveva in me topi e topi che non erano precisamente ricordi. Non erano che topi, scuri, informi, 365 topi scuri dei miei anni, ma solo dei miei anni in Sicilia, nelle montagne, e li sentivo smuoversi in me. Topi e topi fino a 15 volte 365 e il piffero suonava in me e così mi venne una scura nostalgia come di riavere in me la mia infanzia. Ripresi e rilessi la lettera di mio padre e guardai il calendario. Era il 6 dicembre. Avrei dovuto scrivere per l'8 la solita cartolina di auguri a mia madre. Sarei stato inqualificabile a dimenticarmene ora che mia madre era sola nella sua casa. E scrissi la cartolina di auguri, me la misi in tasca. Era sabato di fine quindicina e riscossi il mio salario. Andai alla stazione per impostare, passai davanti all'atrio. Era pieno di luce e fuori pioveva, l'acqua mi entrava nelle scarpe. Salii nella luce le scale dell'atrio. Per me era lo stesso continuare sotto la pioggia verso casa o salire quelle scale, e così salii nella luce. Vidi 2 manifesti. Uno era di un giornale, squillante per nuovi massacri, l'altro era della CIT. Visitate la Sicilia, 50% di riduzione da dicembre a giugno, 250 lire per Siracusa, andata e ritorno, terza classe. Mi trovai allora un momento come davanti a 2 strade. L'una rivolta a rincasare, nella stazione di quelle folle massacrate, sempre nella quiete, nella non speranza. L'altra rivolta alla Sicilia, alle montagne, nel lamento del mio piffero interno. E in qualcosa che poteva anche non essere una così scura quiete, e una così sorda non speranza. Mi era lo stesso, tuttavia, prendere l'una o l'altra. Il genere umano era lo stesso perduto. E seppi di un treno che partiva per il sud alle 7, da lì a 10 minuti. Suonava acuto in me il piffero, e mi era lo stesso partire o non partire, chiesi un biglietto, lire 250, e mi restarono del salario quindicinale appena riscosso altre 100 lire in tasca. Entrai nella stazione, tra i lumi, tra le alte locomotive e i facchini urlanti, e cominciò un lungo viaggio notturno che per me era lo stesso di essere in casa, al mio tavolo sfogliando il dizionario o a letto con la mia moglie ragazza. Ero in viaggio, e a Firenze, verso mezzanotte, cambiai treno. Verso le 6 del mattino dopo cambiai un'altra volta, a Roma Termini, e verso mezzogiorno giunsi a Napoli, dove non pioveva, e spedii un vaglia telegrafico di lire 50 a mia moglie. Le dissi: torno giovedì. Poi viaggiai nel treno per le Calabrie. Ricominciò a piovere, a essere notte, e riconobbi il viaggio. Me, bambino, nelle mie 10 fughe da casa e dalla Sicilia, in viaggio avanti e indietro per quel paese di fumo e di gallerie, e fischi inenarrabili di treno fermo nella notte in bocca a un monte dinanzi al mare, a nomi da sogni antichi, Amantea, Maratea, Gioia Tauro. Così un topo, d'un tratto, non era più un topo in me, era odore, sapore, cielo, e il piffero suonava un attimo melodioso, non più lamentoso. Mi addormentai, mi risvegliai e tornai ad addormentarmi, a risvegliarmi. Infine fui a bordo del battello traghetto per la Sicilia. Il mare era nero, invernale, e in piedi sull'alto ponte, quell'altipiano, mi riconobbi di nuovo ragazzo, prendere il vento, divorare il mare verso l'una o l'altra delle due coste con quelle macerie, nel mattino piovoso, città, paesi ammucchiati ai piedi. Faceva freddo e mi riconobbi ragazzo. Avere freddo eppure restare ostinato sull'alta piattaforma, nel vento, a picco sulla corsa e sul mare. Del resto non si poteva girare. Il battello era pieno di piccoli siciliani da terza classe, affamati e soavi nell'avere freddo, senza cappotto, le mani nelle tasche dei pantaloni, il bavero della giacca rialzato. Avevo comprato a Villa San Giovanni qualcosa da mangiare, pane e formaggio, e mangiavo sul ponte, pane, aria cruda, formaggio, con gusto e appetito, perché riconoscevo antichi sapori delle mie montagne e persino odori, mandrie di capre, fumo di assenzio, in quel formaggio. I piccoli siciliani, curvi, con le spalle nel vento, le mani in tasca, mi guardavano mangiare, erano scuri in faccia, ma soavi, con barba da 4 giorni, operai, braccianti dei giardini di aranci, ferrovieri con i cappelli grigi a filetto rosso della squadra lavori. E io, mangiando, sorridevo loro, e loro mi guardavano senza sorridere. Non c'è formaggio come il nostro, io dissi. Nessuno mi rispose. Tutti mi guardavano. Le donne dalla femminilità voluminosa sedute sui grandi sacchi di roba, gli uomini in piedi, piccoli come bruciacchiati dal vento, le mani in tasca. E io di nuovo dissi: non c'è formaggio come il nostro, perché ero d'un tratto entusiasta di qualcosa, quel formaggio, sentirmene in bocca, tra il pane e l'aria forte, il sapore bianco e pure aspro e antico, coi grani di pepe come improvvisi grani di fuoco nel boccone. Non c'è formaggio come il nostro, dissi per la terza volta. Allora uno di quei siciliani, il più piccolo e soave e insieme il più scuro in faccia e il più bruciato dal vento, mi chiese: ma siete siciliano voi? Perché no? Io risposi. L'uomo si strinse nelle spalle e non disse altro. Aveva una specie di bambina seduta su un sacco ai piedi e si chinò su di lei e uscì di tasca una grande mano rossa e la toccò come carezzandola, insieme aggiustandole lo scialle perché non avesse freddo. Da qualcosa di quel gesto io vidi che la bambina non era sua figlia ma sua moglie, e intanto Messina si avvicinava. Non era più una mucchiata a macerie sull'orlo del mare, ma case e moli e tramvai bianchi e file di vagoni nerastri su larghi spiazzi di ferrovia. Il mattino era di pioggia ma non pioveva. Tutto era bagnato sull'alto ponte e il vento soffiava bagnato e i fischi dei battelli risuonavano bagnati e come fischi d'acqua giungevano da terra quelli delle locomotive. Ma non pioveva e dall'altra parte delle ciminiere d'un tratto si vide in mezzo all'inverno marino la torre del faro in viaggio, altissima, in navigazione per Villa San Giovanni. «Non c'è formaggio come il nostro», dissi io. Tutti i siciliani in piedi si erano voltati verso le ringhiere del ponte a guardare la città. e anche le donne sedute sui sacchi avevano voltato la testa a guardare, ma nessuno si muoveva verso il sottoponte a prepararsi per lo sbarco. C'era ancora tempo. Ricordavo bene che c'erano dal faro all'approdo 15 minuti e più. «Non c'è formaggio come il nostro», dissi. E intanto finivo di mangiare, e l'uomo con la moglie bambina si chinò un'altra volta e anzi si inginocchiò. Aveva un paniere ai piedi e, osservato da lei, cominciò a fare qualcosa intorno al paniere. Era coperto, questo, da un pezzo di tela incerata cucita all'orlo con lo spago. E piano piano egli sfilò un po' di spago, cacciò la mano sotto la tela, mise fuori un'arancia. Non era grande né molto bella, non forte di colore, ma era un'arancia. E silenziosamente, senza levarsi di ginocchio, egli l'offrì alla moglie bambina. La bambina guardò me, io vidi i suoi occhi dentro il cappuccio dello scialle e poi la vidi scuotere il capo. Il piccolo siciliano parve disperato e rimase in ginocchio, una mano in tasca, l'arancia nell'altra. Si rialzò in piedi e così continuò a stare, col vento che gli sbatteva la visiera molle del berretto contro il naso, l'arancia in mano, bruciato dal freddo nella piccola persona senza cappotto e disperato, mentre a picco sotto di noi passavano nel mattino di pioggia il mare e la città. «Messina», disse con lamento una donna. E fu una parola detta senza ragione, solo una specie di lagnanza. E io osservai il piccolo siciliano dalla moglie bambina pelare disperatamente l'arancia e disperatamente mangiarla, con rabbia e frenesia, senza affatto voglia e senza masticare, ingoiando e come maledicendo, le dita bagnate di sugo d'arancia nel freddo, un po' curvo nel vento, la visiera del berretto molle contro il naso. «Un siciliano non mangia mai la mattina», egli disse d'un tratto. Soggiunse: «Siete americano, voi?» Parlava con disperazione eppure con soavità, come sempre era stato soave anche nel disperato pelare l'arancia e nel disperato mangiarla. Le ultime tre parole disse eccitato, in tono di stridula tensione, come se gli fosse in qualche modo necessario per la pace dell'anima sapermi americano. «Sì», disse io vedendo questo, «americano sono da 15 anni. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.